con il nostro ospite speciale Alice Cooper. Yeah! No, Kermit, fermati. Non è il tuo studio questo, non c'è neanche Alice Cooper. Guarda che è sbagliato, è lo studio vicino al nostro. Cacchio, cioè, sono 20 anni che ci conosciamo, Kermit, non puoi sbagliarmi su queste cose. Vabbè, dai, mi fai pena quando fai così, dai, stai qua con me ancora un po', dai. Allora, ti faccio sentire questo gruppo. Non è proprio come Alice Cooper, però sono bravi uguali, dai, si chiamano Sintesi. E la canzone è Donne Bellissime. Lo so che a te, Kermit, ti piacciono le maiale, cioè, nel senso, piacciono anche a me, adesso non vorrei confondere le volte, insomma, non mi fare domande imbarazzanti, Kermit, lascia per, Kermit, ascolta sta canzone, Kermit, smettila di fare, vai fuori, ti ho detto di uscire, basta, vai fuori! Razionali e lucidi, nemici guai della vita. Gli scossoni fanno male all'anima, ma non perder le occasioni. Di donne bellissime da guardare, momenti di vita che ti fanno stare male. Lavorare è stanca, su questo non ci piove. Uscita, la cerco ma non so dove. Messaggi in codice, lanciati a raffica. Turbano la mia e la tua tranquillità. Signore e signori, oggi a Radio Tassello abbiamo un ospite d'eccezione, Claudia, che ci parlerà di un libro. Ecco, penso che questo sia uno dei tanti momenti in cui capisci quello che ha fatto scrivere canzoni a qualcuno, che ha fatto uscire di casa qualcun altro, l'ha fatto salire in macchina e l'ha fatto girare per le vie e non sa nemmeno lui dove, che ti ha fatto buttare sul letto a peso morto e guardare il soffitto chiedendoti se sei impazzito davvero, che ti ha fatto sbagliare a spalmare lo smalto, nero, poi se era chiaro almeno, sul polso intero e buttare l'acetone nel cestino con tutto il tappo aperto. Quando le canzoni ti partono nella testa e nelle vene, quando tutto sembra girare anche se è fermo, che ti ha fatto isolare dal mondo, che ti ci ha fatto entrare invece a forza, uno di quei momenti così, che non so spiegare, che non so chiamare. Da un cielo così chiaro dedicato a te, di... Claudia Carnevale. Benissimo, ciao Claudia. Ciao. Allora, parlaci un po' di questo libro. Allora, sì, Un cielo così chiaro dedicato a te è un libro che ho scritto come fosse un diario, perché era un diario, e ho deciso di pubblicarlo infatti soltanto dopo che avevo finito di scriverlo. All'inizio si intitolava soltanto dedicato a te, poi la casa editrice mi ha detto che non era comunque un titolo magari molto convenzionale e mi ha chiesto di cambiarlo, e al che mi sono trovata un po' così, perché ho detto beh, ok, posso anche cambiarlo, però avendolo scritto direttamente io non sapevo che cos'altro, come intitolarlo, perché comunque era veramente qualcosa che avevo scritto per dedicarla a qualcuno. Quindi di conseguenza la casa editrice ha pensato, solo per una questione di business fondamentalmente, di cambiare il titolo per magari renderlo più appetibile. Questo è stato il senso della casa editrice? Abbastanza sì. Ok. Abbastanza sì, anche perché mi è stato proprio chiaramente detto che comunque non era un titolo che poteva andare bene. Alla mia domanda perché, non c'è stata una risposta, perché alla fine comunque dedicato a te poteva essere forse troppo semplice, forse troppo banale per un libro che magari, non so, si pensava essere destinato a vendere milioni di copie, ma non per me che l'avevo scritto. Infatti io non l'ho cambiato, ho chiesto semplicemente, visto che non gli stava bene, di trovare loro qualche altro titolo che potesse comunque andare bene per il mio libro. Al che l'ufficio stampa mi ha risposto, ma perché non lo titoliamo Un cielo così chiaro? Perché era comunque una frase mia del libro che gli è piaciuta veramente tanto. Sono stata un po' così anche quando mi hanno risposto con questa frase, perché la parola cielo mi ha fatto subito pensare a 3 metri sopra il cielo, Lucchetti, e un amore con gli occhiali rosa, tutte a queste parte cose il discorso, abbastanza. Cioè, se non sbaglio, per quanto riguarda il discorso di Lucchetti, c'è un ponte famoso. Ponte Emilio. Ma credimi, anch'io sono andato là, sono andato col blaster, Gesù, però mi ha detto che non poteva attaccarlo. Incredibile. Ma infatti è stata questa proprio la cosa abbastanza, come dire, che mi ha un po' fermato, perché ho detto no vabbè, allora a questo punto la parola cielo sembra proprio fatta apposta per richiamare un romanzo che non c'entra assolutamente niente con quello che posso avere scritto, pensato e vissuto. E quindi ho detto no, non mi va che comunque si possa pensare che è una cosa fatta apposta, come qualcuno che prima di me l'ha utilizzato sicuramente magari in maniera straoriginale rispetto a me, però che è avvenuto veramente tanto. Però poi ho detto vabbè, essendo comunque qualcosa che ho scritto io, è una mia frase, penso che una persona, se prende in mano il libro, vede la parola cielo e lo poggia e non lo vuole più vedere, allora vuol dire che non avrebbe apprezzato neanche quello che c'era scritto dentro della serie. Sicuramente. Se una persona, cioè è un po' una cosa, voglio dire, come tu quando vai in libreria vedi una cosa che in libreria, dove vuoi, cioè anche in tutti i negozi di musica dove possiamo andare sempre noi, un album ti colpisce non soltanto per la copertina, dovresti anche sentirlo, credo. Ma infatti cioè, una delle massime dei maestri è proprio quello, tu un libro non puoi giudicarlo dalla copertina. Infatti. Quindi cioè, è una massima. Al che ho detto, la frase è mia, mi piace, perché comunque poi l'ho ripresa anche in mano, nel senso ho rivisto anche il libro nell'ottica di questa frase e ci sta. Un cielo così chiaro non è sempre facile vederlo, no? Dipende a che occhiali porti, io direi. No, dai, a parte gli scherzi. Allora, adesso abbiamo parlato un po' del lato burocratico, diciamo, che c'è stato dietro poi la pubblicazione del libro, la scelta del titolo, più o meno come doveva essere, ma in realtà la trama? La trama è stata la cosa più semplice del mondo, perché essendo comunque stato scritto come diario, io tutte quelle cose le ho veramente vissute, ovviamente poi essendo un romanzo sono anche state romanzate, conseguentemente non è che tutto stravero quello che c'è scritto, però quando l'ho messo insieme ho soltanto cercato un filo rosso conduttore che mi poteva unire la prima parte con l'ultima, ma non ho assolutamente dovuto far fatica, perché essendo tutte cose che ho scritto mentre succedevano, ho cercato comunque soltanto di assemblarle, ed è una storia realmente accaduta, divisa fondamentalmente in 3 anni, e che vogliono un pochino essere poi le 3 parti del libro, in cui il libro si divide. Ed è stato appunto anche questo uno dei motivi per cui ci ho veramente tenuto al fatto che il libro uscisse così come l'avevo pensato, così come l'avevo scritto, perché non mi andava di andare a modificare qualcosa che avevo veramente sentito, veramente vissuto sulla mia pelle. Cioè, non era una questione di dire lo facciamo più corto, lo facciamo più lungo, cambiamo le parole. Sì, per l'amor di Dio, l'ho fatto, lo rifarei ancora se trovassi comunque qualcuno che mi dicesse: guarda Claudia, qua non si capisce cosa vuoi dire, guarda lì, sei stata poco chiara. Però essendo appunto qualcosa in cui ci ho creduto veramente, perché era successo come era successo, non avrei mai scelto di modificarlo per pubblicarlo e per guadagnare in più. Ma quindi tu mi stai dicendo che fa parte del tuo vissuto, o perlomeno in parte, o in gran parte fa parte del tuo vissuto. Ma qual è stata quella scintilla che ha fatto sì che la tua scelta ricadesse sul libro e non su qualsiasi altra cosa a livello artistico? Perché proprio una composizione scritta e non altro? Cosa ti ha portato lì? Ma perché fondamentalmente io ho sempre scritto da quando ero piccolina, perché alla fine, come ho detto prima, è una valvola di sfogo che secondo me, cioè a me personalmente, è sempre uscita bene. C'è magari chi non parla e suona, c'è magari chi non parla e dipinge, c'è magari chi non parla e scrive. A me piace anche disegnare, mi piace dipingere, mi piace suonare, non sono strabrava, però comunque mi diverto anche in quello, ci divertiamo con le mie amiche anche in quello. E il discorso è che scrivere per me è una cosa naturale, è un po' come camminare, è un po' una cosa senza... non potrei immaginarmi senza scrivere, ma non perché qualcuno debba capirmi se non legge, ma perché io non potrei stare senza fermare su un foglio quello che mi passa per la testa in quel momento, qualsiasi cosa sia. Molto bello, molto bello. Ogni persona poi ha il suo modo per poter esprimere quello che che sente, quello che è. Come dicevamo giustamente prima fuori onda, tu hai citato la musica. Ma ritornando a parlare del tuo libro, i protagonisti quindi sono viventi. Sì. Giusto? Sì, sì. E raccontaci magari leggendo qualche altro brano del tuo libro, un po' realmente come si sviluppa la storia. Le parole che le ho scagliato contro mi bruciano dentro, ma ancora più in fondo mi brucia qualcosa che non riesco a spiegare. Quel qualcosa che ti pulsa in gola quando chi è di fronte, invece di darti la risposta che vorresti, ti dice altro. Ti dice una cosa che ti fa male e l'unico desiderio che hai è restituire quel dolore, fare male anche tu sperando di sentirti un po' meglio. Ti odio, sparisci per sempre dalla mia vita. Mentre lo dice, il viso rigato dalle lacrime, ma la sua voce è ferma e decisa, non tremolante. Una dignità spaventosamente reale esce dai suoi grandi occhi caldi trafiggendo i miei. Sta dicendo sul serio ed io mi sento morire. Porca miseria, cioè quindi questo è un dialogo dove due persone si stanno mollando in questa maniera. Perspicace. Ora io ho studiato, cioè, sono andato a Oxford, sono andato a Cambridge, ho fatto anche un master in cazzate. Vedi, anche dalla maglietta. Vedi, cioè, ragazzi, sono un professionista, cioè, non lo so io. E comunque sia, è una parte che hai vissuto, quindi tu hai espresso su le vere sensazioni che tu hai provato. Ho riportato il dialogo vero e proprio. È proprio really? Sì, perché come ti dicevo, quella è una cosa successa veramente, però essendo stato scritto appunto in quella circostanza, in quel momento, ed essendo stato scritto come diario, non fai fatica quando una cosa ti fa male o ti fa bene, perché poi alla fine ci sono cose che vuoi o non vuoi ti rimangono impresse, le cose belle ti piace ricordarle perché appunto sono belle, quindi non dovresti neanche fare tanta fatica. Le cose brutte purtroppo, vuoi o non vuoi, ti restano, no? Dentro, quindi. Sai qual è il problema tante volte? Il fatto che spesso e volentieri ci si ricorda molto di più delle cose brutte piuttosto che delle cose belle, perché quasi le si dà per scontate, quindi di conseguenza ti rimangono in memoria soprattutto le cose brutte. Ma un po' quando fai sogni ti ricordi fondamentalmente gli incubi che fai molto bene. Sì, è vero. Magari un sogno te lo ricordi la mattina appena ti svegli, però poi già arrivi alle 4 del pomeriggio peggio che dici boh. È vero, è vero. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere sul tuo libro? No, direi di no, perché sennò poi non lo compra nessuno, quindi comunque comprate. No, no, scherzo. No, direi di no, perché comunque quello che dovevo dire l'ho già detto dentro il libro stesso, quindi niente, non ho altro da aggiungere. Ho letto due pezzi a caso che mi hai chiesto di leggere, però dico a caso perché avrei potuto tranquillamente leggerne altri, che per me sarebbe stata la stessa identica cosa. L'ultima cosa, Claudia, perché sei qui alla Spazio Anteprima? Perché il 23 c'è la presentazione del libro e niente, appunto, colgo l'occasione anche di presentare dei miei amici che sono con me, che Spazio conosce, che mi aiuteranno durante la presentazione di questo libro con le loro canzoni, e sono i Dual Layer, nelle persone di Marco e Dania. E la persona che sta facendo casino alle mie spalle, che è Andrea, le fate sono morte. Bella! Bella, bella. Ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere parlare con te, Claudia. Ci risentiamo alla prossima, ragazzi, con sto bordello, dai. Ci sentiamo, Josh Woodward. Vai. Ciao. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. In a home beneath my skin. The seeds have been buried deeply, the roots are in place. It's blood in the sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted, but now it's too late. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. I promise I never. Starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside. inside me. It's making a home beneath my skin. Ragazzi, ma avete sentito che bella musica che passiamo? Tutti sti brani sono tratti da Jamendo.com. Veramente un pezzo stupendo. Nulla che fare con la grandiosità e la sublimità della musica classica. Queste essere canzoncini interessanti, ma nulla a che vedere con il sublime. No, no, beh, professore, cioè, no, sono artisti bravi anche loro, cioè. Nel senso, magari dovranno fare un po' di pratica, però sono bravi. Eresia, nulla a che fare con Ludwig van Ereshoven. No, era Beethoven. Sì, va bene, essere stessa cosa, non mi corregga, grazie. No, scusi. Ma nulla a che vedere con Wolfgang Schwerzen Amadeus. No, professore, era Wolfgang Amadeus. Non Mozart. Mi corregga! Non la corregga! Non mi corregga! Non la corregga! Nulla della grandiosità può essere modificato, può essere solamente integrato. Professore, ma lei da dove è entrato? Ho trovato a chiavi d'accesso segrete a spazio di prima, ya? Bene. Andiamo proprio qui, proprio cani e porci, portiamo. Non si permetta di usare questo tono. Lei non conosce il mio curriculum, gli immensi studi che ho compiuto sulla grandiosità della musica. Ma se il tuo curriculum l'hai preso con la corrispondenza di Topolino, prof. Sempre più indisponenti questi giovani che vogliono ambire alla musica, al suo accesso segreto e sublime. Sì, vabbè, ma cioè, mi ha fatto l'esempio semplicemente di Mozart e di Beethoven, ma mi dica qualche nome odierno. Qualcosa di più recente nelle reminiscenze della grandiosità della musica classica si ritrova in un artista sublime. E chi sarebbe? Raul Casadei. No, io me ne vado, ragazzi. Cioè, portatemelo via questo! Oh, guarda, questo è matto! Questo è proprio matto! No, io ti illustrerò la via, la verità e la vita dei segreti a livello musicale. Come ti permetti? Non conosci la grandiosità? Non hai gli strumenti l'ambulanza. Per poter parlare! L'ambulanza, aiuto! Chiamate l'ambulanza! Vengino, signori, vengino! Si affrettino! La carovana sta partendo! La signorina, buonasera, è di nuovo qui con voi. Vorrei iniziare con l'11 luglio, il caffè letterario sulla solitudine dei numeri primi di Bravis Paolo Giordano. Sempre alle ore 21. Il 18 luglio, caffè letterario sull'oceano e mare di Baricco. Sempre alle ore 21. Il 23 luglio la presentazione del libro Un cielo così chiaro dedicato a te di Claudia Carnevale. Lo presenterà insieme ai Dua Layer e le Fate sono morte, che intratterranno musicalmente questo evento. Sempre dalle ore 21, è chiaro. Il 25 luglio invece il caffè letterario con I giorni memorabili di Michael Cunningham. Dalla signorina buonasera è tutto. Arrivederci alla prossima, ciao! Allora, bella gente, vi è piaciuta questa canzone? È troppo facile, di Gazebo Penguins. Allora, adesso abbiamo una novità qua a Radio Tassello. Nel futuro ce ne saranno tante, ma questa è la prima. Sono degli sketch radiofonici, non vi voglio dire nient'altro, ma godetevi le avventure di Nicola e Raffè. Le avventure di Nicola e Raffè, guaglio! Nico, sono pronti le orecchiette! Ma arrivo! Qua ho citofonato, pronto? Cioè, sta a spazio? Sta anteprima? Qua non sta né spazio né anteprima, non sta. Ma ci maffè, che ne sai, Raffè? Io ho lasciato pure gli strascinetti a metà. Mi hai fatto alzare pure presto stamattina alle 11. E cacciacavallo? E ce l'ho qua, aspetta, una mutanda, aspetta un attimo, tiro fuori. Sì, ma in che parte la mutanda? Sai che non mi piace quella Roma. Se lo vuoi piccante dietro? Allora va bene piccante. Ecco, a posto. Oh, Raffè, ma è mo qua fuori in mezzo alla strada. Ma vedi che ci sta la signorina là. Ah, chi è? Ma quella fa la raccolta differenziata. Sì, che sarà a me avanti. Sta bruciando la gomma. Dropping Out of School di Brad Sachs, anche questo davvero un bel pezzo. Beh ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine. Un saluto da tutti, a tutte le persone che sono state anche qua. Io sono Re. Kermit, allora non ci siamo capiti. Cioè, non solo sei venuto con tutta la ciurma, capito? Ma sei venuto pure qui a far casino. Questo è il mio programma e lo gestisco io, Kermit. Non hai capito, forse? Scusatemi, ragazzi, ho un problema tecnico. Vattene via, te ne devi andare. Sti pupazzi ubriachi, vattene via. Towards the cold of this old city, you're still blowing through my mind. I'm the king, that my queen, when you're not near me. A poet fumbling for a rhyme. You're the only one for me. Well, you know I don't want nothing if I can't. When you go, my heart goes missing. Everything you do, and I just wanna hold you till the sun comes up. Well, I just wanna hold you till the sun comes up. So I'll be waiting here for you. On a mirror in my bedroom, I wear your t-shirt when I sleep. I sit and wait for you to call me from your hotel. I'll pretend you're holding me. You're the only one for me. Makes the heart grow fonder. I'm so fond of you. Promise I'll be true. They say home is where the fire is. I can't wait to kiss your face. Feel your warm embrace. I gotta say, you know I don't want nothing if I can't have you. When you go, my heart goes missing. Ma qual è stata quella scintilla che ha fatto sì che tu possa ballare la mazurka, Maremma impestata?